America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero. My preference continues to be finding a diplomatic resolution. Barack Obama che dà notizia di una chiacchierata con il primo ministro olandese Rutte. Gli ha fatto le condoglianze per quello che è successo, ha espresso solidarietà. Mi ricordo tra l'altro quando si incontrarono, ero lì nella residenza del primo ministro all'Aia, quando Barack Obama partecipò al vertice nucleare che si tenne in Olanda. Ecco, i due erano in sintonia su molte cose, ma devo dire che poi quando si andava nel dettaglio l'Olanda, soprattutto nei confronti della Russia, soprattutto nei confronti di certe politiche sulle sanzioni che l'America avrebbe voluto più dure, l'Olanda era più prudente. Ecco, questa prudenza si è espressa ieri nel vertice europeo. Barack Obama ha espresso soddisfazione per il fatto che l'Europa abbia deciso di inasprire certe sanzioni nei confronti della Russia dopo quello che è successo nei cieli dell'Ucraina, però privatamente gli americani si sarebbero aspettati qualche cosa di più. L'Europa ha fatto un piccolo passo indietro. Ecco, non è incoerente questa posizione europea. Perché? Beh, perché ieri l'America ha anche voluto mostrare le prove che l'attacco è partito nella zona sotto il controllo dei ribelli filorussi. Però l'America ha anche detto che la Russia non aveva partecipato direttamente a questo attacco e che il lancio di questo missile è stato un errore. Ecco, una posizione secondo me questa di apertura nei confronti di Mosca e dunque una posizione in coerenza, vi dicevo, con la reazione più blanda da parte dell'Europa. Perché? Per cercare di dare, come dire, un alibi a Vladimir Putin perché esca da questa sua chiusura, perché aiuti davvero a trovare un cessate il fuoco e la fine di questo conflitto devastante ormai per il mondo che c'è stato in Ucraina. Notizie non rassicuranti anche da Gaza, ormai arrivano ogni giorno. In questo caso restiamo in tema perché sono stati cancellati una gran quantità di voli internazionali diretti a Tel Aviv, hanno cominciato le linee aeree americane, la Delta, l'American. Perché? Perché era stato trovato un razzo vicino all'aeroporto, un razzo lanciato da Hamas, c'erano anche dei detriti e dunque secondo le regole della Federal Aviation Administration, l'agenzia di controllo dei voli aerei civili americani, e questo rendeva l'aeroporto poco sicuro. Le notizie si susseguono, ma io oggi vorrei lasciare un momento il tema politico per parlarvi d'altro. L'America va avanti, come vi dicevo ieri parlando d'estate, va avanti sul fronte delle notizie, dell'arte, della cultura e dei film. Magic in the Moonlight. Beh, quello che avete ascoltato è l'apertura del nuovo film di Woody Allen. In realtà avete ascoltato in diretta quella che è stata la proiezione in anteprima di questo film. Gli applausi erano gli applausi del pubblico quando gli attori, il regista apparivano sullo schermo in sovraimpressione. Ecco, gli attori chi sono? Emma Stone, Colin Firth, Marcia Gay Harden, un cast come sempre d'eccezione, una commedia romantica che uscirà in alcuni cinema americani venerdì 25 luglio. Ho avuto la fortuna di poter vedere questo film in anteprima, vi racconto la trama. La trama qual è? Colin Firth, che è Stanley Crawford, è un prestigiatore inglese burbero, arrogante, che si traveste da cinese, porta un elefante, fa addirittura sparire un elefante dal palcoscenico e a un certo punto il suo amico, un suo vecchio amico, lo convince ad andare in Costa Azzurra dalla famiglia Cutledge per incontrare Sophie. Sophie e Emma Stone. Sophie chi è una medium che è stata invitata dalla famiglia Cutledge e in particolare da Grace Cutledge perché gli aiuterà a mettersi in contatto con il marito defunto. E Stanley a quel punto ha un obiettivo. Lui è un grande realista, crede che la magia ci sia soltanto perché c'è un trucco, non crede nei medium, nei veggenti, nel sovrannaturale e dunque decide di andare in Costa Azzurra per smascherare Sophie, che secondo lui è un imbrogliona. Ecco, questo è l'avvio del film. Non ve lo voglio guastare, non vi racconterò altro, ma è una trama, devo dire, molto divertente, densa di colpi di scena e soprattutto così, con questa straordinaria fotografia della Costa Azzurra, con questa straordinaria ambientazione in queste meravigliose case degli anni 20, degli anni 30, in un'epoca spensierata dove è facile, devo dire, trovare rifugio, soprattutto pensando a quello che capita nei nostri giorni. I don't see anything optimistic about the future. I'm not optimistic on the Middle East. Ecco, naturalmente c'è il film, ma c'è anche Woody Allen, il personaggio, un personaggio straordinario, 78 anni, 50 anni di carriera, ha vinto 4 premi Oscar, ci ha fatto sognare, un personaggio anche controverso, perché devo dire, se ripensiamo a quello che è successo nel febbraio di quest'anno, c'è stato un piccolo dramma che sembra quasi un film in diretta dello stesso regista. Ci fu Maya Farrow, la sua ex moglie, che lo accusò di aver molestato Dylan Farrow, che è la figlia adottiva di Woody Allen e di Maya Farrow. Molti anni fa ci furono già delle polemiche, si erano sopite, poi improvvisamente sono riesplose. Ci sono stati degli attacchi violenti nei confronti del regista, e dopodiché lui stesso ha deciso di scrivere una lettera molto drammatica al New York Times, in cui dà la sua versione dei fatti. Devo dire, è una lettera molto coerente, racconta di analisti, di psicologi, di procuratori, di inchieste che sono state condotte, e tutte si sono concluse con un nulla di fatto, ed è molto depresso naturalmente da questi attacchi, e dice: beh, l'unica spiegazione che posso darmi è che Maya Farrow cerchi di avvelenare la mia vita anche per vendetta, per quello che è successo, perché Woody Allen poi lasciò Maya Farrow per cominciare una relazione con Suni Previn, che era una figlia adottiva di Maya Farrow, non di Woody Allen. E dunque ci fu ovviamente una grande controversia quando questa storia d'amore partì. I due però sono ancora insieme, sono una coppia felice, erano l'altra sera a vedere questo film. Ai margini di questo film, il giorno dopo, Woody Allen ha chiacchierato molto, credo anche così stimolato da quello che è successo. Qualcuno gli ha chiesto, e c'è stato BuzzFeed, che devo dire uno dei siti internet più interessanti, che ha fatto una sintesi delle sue varie dichiarazioni. A un certo punto gli dicono: ma perché questi personaggi tuoi sono così nevrotici? E lui risponde con un tono, devo dire, molto tetro, molto pessimista. Dice: perché alla fine la vita non significa nulla, la vita non ha senso, e non sono io a pensarla così, non sono io soltanto, ci sono grandi menti che la pensano allo stesso modo, tutto è destinato a sparire, l'universo sparirà, Beethoven, Shakespeare, Leonardo da Vinci spariranno tutti, e noi spariremo prima dell'universo, perché il nostro sole si spegnerà molto prima della fine dell'universo. Insomma, come dire, dei toni molto pessimistici, però dei toni che Woody Allen utilizza per spiegare come mai cerca rifugio in questi suoi film, cerca una fuga nei personaggi che interpretano il film, anche negli attori, nelle persone che lo aiutano a lavorare, che sono donne bellissime, uomini affascinanti, personaggi di grandissima levatura. E dunque questa sua fuga nel film, questa sua nevrosi che si riflette in alcuni dei personaggi, ha una spiegazione. La spiegazione è che il film deve essere leggero, deve farci dimenticare. E devo dire che in una conversazione che io poi ho avuto con lui mi dà proprio questa spiegazione parlando dell'ultimo film. Sentiamo. What I always want to express is that people should come to see it, they should have a good time, and when they leave they should feel that they didn't waste their time. Ho registrato questa chiacchierata con Woody Allen proprio a questa prima del film, di cui vi ho fatto sentire le registrazioni in apertura, e quando gli chiedo di darci un contesto di questo suo film, dice esattamente questo. Dice: il mio obiettivo per quanto riguarda tutti i miei film è che la gente vada a vederli e si diverta. Voglio che le persone sentano di non aver sprecato il loro tempo, che non dicano sì mi è piaciuto ma, che sentano invece che ne è valsa la pena. Dunque un collegamento diretto al fatto che a questa vita, che può avere un sottofondo di connotazione tragica se pensiamo alle grandi domande di cui parlava Woody Allen, c'è la risposta nei film e in questi film leggeri. Gli ho chiesto anche però della sua esperienza a Roma. Sentiamo. I loved it because I loved being able to live in Rome with my family for 3 months. You know, usually I go to Rome and I'm there for 3 days. Ecco, Woody Allen mi risponde che la sua esperienza a Roma è stata fantastica. Dice: ho potuto trascorrere lì 3 mesi con la mia famiglia durante le riprese del film. Di solito quando vado a Roma resto per 2 o 3 giorni, massimo una settimana. Invece, restando per 3 mesi, quando appunto ha girato questo suo film, ho potuto vivere la città ed è stato fantastico. Ci tornerei in continuazione. È stato piacevole girare il film a Roma, che è davvero bellissima, è un posto meraviglioso per vivere ed è stato un periodo stupendo. Will you go again, you think, to Rome? Or I go all the time to Rome. I go all the time. I have friends in Rome, but I never went for that length of time before. Ecco, poi gli chiedo se ci tornerebbe a Roma e dice: beh sì, ci vado in continuazione. Ho molti amici, ma non c'ero mai stato così a lungo e questo non lo dimenticherò mai.